tutti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione della Storia e della Memoria che abbiamo deciso di dedicare in prevalenza alla storia dell'economia, partendo da fatti e suggestioni che ci vengono offerti dalla cronaca e dalle vicende principali dell'economia dei nostri tempi, appunto a conti fatti, come suggerisce il nuovo titolo della trasmissione, andremo alla scoperta dei precedenti storici, preziosi punti di riferimento per aiutarci a meglio comprendere quel che accade oggi. E molto spesso scopriremo che nella storia dell'economia vi sono non pochi fatti che tendono a ripetersi, seppur con diverse modalità e intensità a seconda dei vari periodi storici. Cominciamo oggi con una questione annosa alla quale dedicheremo diverse puntate, quella del debito. Con il debito hanno fatto i conti stati e nazioni nel corso dei secoli e in diversi casi si è assistito a un vero e proprio fallimento, un default, come oggi si dice, a proposito dell'impossibilità di un paese di onorare i debiti contratti con i propri cittadini e con l'estero. Oggi prendiamo spunto dalla lunga e tormentata crisi greca, che la scorsa estate ha scosso nuovamente dalle fondamenta l'intera Europa, tanto che per la prima volta si è rischiata l'uscita di un paese europeo dall'eurozona. Il debito, dunque, che in Grecia ha raggiunto un'enorme cifra di 330 miliardi, pari al 180% del PIL greco, e, nonostante qualcuno potrebbe aggiungere anche a causa degli oltre 400 miliardi di prestiti concessi finora ad Atene, attraverso i diversi piani di aiuto, è giudicato insostenibile. Nella dura contrapposizione che ha opposto i falchi tedeschi al governo Tsipras, si è evocato un precedente sul quale questa sera soffermeremo la nostra attenzione: l'ormai famosa cancellazione di parte del debito contratto dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, decisa dagli accordi di Londra del 1953. L'ammontare del debito di guerra tedesco, dopo il 1945, aveva raggiunto i 23 miliardi di dollari, una cifra colossale che la Germania non sarebbe stata in grado di ripagare. Il 24 agosto 1953, 21 paesi, tra cui Belgio, Regno Unito, Italia, Grecia, Francia e Stati Uniti, con un trattato firmato a Londra, consentirono alla Germania di dimezzare il proprio debito, che venne dilazionato in 30 anni. L'altro 50% avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l'eventuale riunificazione delle due Germanie. Nell'ottobre 2010 la Germania ha finito di rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell'ultima tranche da 69,9 milioni di euro. Senza l'accordo di Londra avrebbe dovuto rimborsare debiti per altri 50 anni. Nel 1953 il cancelliere tedesco Konrad Adenauer si trovò dunque in una situazione paragonabile a quella di Alexis Tsipras oggi. Circa la metà del debito della Germania derivava da prestiti contratti durante gli anni 20 e i primi anni 30, usati per pagare i danni di guerra imposti nel 1919 dal Trattato di Versailles. Nel 1952 il debito della Germania detenuto da paesi esteri ammontava al 25% circa del reddito nazionale. Altri tempi, altre stagioni politiche. In piena guerra fredda, gran parte dei creditori della Germania ritenne, ricorrendo alla Realpolitik, che fosse più urgente stabilizzare il quadro politico ed economico del paese, così da rafforzare il ruolo di bastione contro il comunismo della Germania, piuttosto che esigere il pagamento dei debiti contratti dal passato. Ma è un'interpretazione corretta? Lo abbiamo chiesto allo storico Lutz Klinkhammer, che è referente per la storia contemporanea dell'Istituto Storico Germanico di Roma. Buonasera e bentornato. Buonasera. Allora, è veramente così? È corretto che ci fu nel 1953 una decisione ispirata, come dire, alla Realpolitik per quel che riguarda il debito contratto dalla Germania durante le due guerre? No, non direi, perché tutto sommato si trattava del debito contratto durante gli anni 20-30 e quindi l'effetto della clausola sulle riparazioni che la Germania durante la Repubblica di Weimar era riuscito a non pagare. E con la crisi poi del 31 le riparazioni venivano praticamente cancellate, non si parlava più. E tutti il debito privato contratto dal Reich e dalle regioni tedesche rimase anche nel secondo dopoguerra, dove si avrebbe potuto parlare in primis delle riparazioni della seconda guerra mondiale. Quindi è tutto strano che nel 1953 veniva regolato il settore del debito contratto verso privati, verso banche da parte del Reich, e non si parlò le riparazioni di guerra per le devastazioni della seconda. Ecco, ma a questo proposito ci interessa anche una similitudine, anche se evidentemente le fasi storiche sono del tutto diverse, con quel che è accaduto alla Grecia. Si è evocato questo precedente, devo dire, il governo Tsipras l'ha anche evocato, se vogliamo, in modo strumentale dal punto di vista politico, quasi a pretendere che anche la Grecia, che peraltro firmò il Trattato di Londra, poi possa, a distanza di così tanti anni, rivendicare il pagamento dei debiti. Ecco, secondo lei c'è una similitudine o si tratta di due fatti profondamente diversi tra loro? È vero che la Germania ha ricevuto una cancellazione notevole del suo debito, perché circa 30 miliardi di marchi tedeschi sono alla fine stati pagati 14 miliardi, quindi una riduzione molto notevole che è stata alla quale si è arrivata grazie ad un dilazionamento dei pagamenti e una riduzione dei tassi di interesse. Quel che non è comparabile è che la Germania era riuscita a Londra di rinviare tutto il dibattito sulle riparazioni della Seconda Guerra Mondiale. E con il trattato 2 più 4 del settembre del 90, siamo a 25 anni adesso di quel trattato, avrebbe potuto essere possibile il ritorno al discorso riparazioni, solo che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei paesi in guerra con la Germania non ha avanzato alcuna rivendicazione, soltanto la Grecia, con un lungo ritardo, adesso ha messo sul tappeto questo problema ancora aperto, quindi la rivendicazione è giustificata, solo ci si può chiedere perché ci volevano 25 anni finché la Grecia rivendicasse il debito non ancora ripagato. Cioè, parliamo adesso delle riparazioni belliche, non della situazione particolare del credito forzoso che è stato, al quale è stato costretto la Grecia a consentire durante l'occupazione. Certo, e tornando alla conferenza di Londra del 1953, dal punto di vista strettamente economico, la ristrutturazione, chiamiamola così, del debito tedesco servì alla Germania per riprendere, come dire, la propria corsa verso una crescita stabile e duratura, oppure fu marginale rispetto ai destini poi futuri dell'economia tedesca? Fu assolutamente fondamentale per una ricostruzione economica finanziaria della Germania occidentale, e questo era tutto l'interesse americano, perché la conferenza di Londra veniva effettuata su spinta inglese e statunitense, che prima finanziavano la ricostruzione postbellica della Germania per rafforzare la possibilità di ripagare questo debito. E tutto dipendeva dalla posizione della Germania occidentale nella nuova guerra fredda, perché durante il periodo del piano Morgenthau gli americani non pensavano minimamente al debito anteguerra, ma si trattava di una concezione completamente diversa, non una ricostruzione della Germania. Eventualmente i vincitori potevano prendersi i beni della Germania dal paese stesso per compensare i danni che erano stati inflitti dalla Germania nazista. Questa concezione con la guerra fredda cambiò radicalmente, e gli americani adesso avevano interesse di aumentare la capacità economica della Germania, anche perché volevano che la Germania ripagasse i debiti anteguerra, in modo che gli inglesi potevano ripagare i debiti contratti con gli Stati Uniti, quindi c'è anche il problema dei debiti interalliati. Bene, dunque da quello che abbiamo appreso ora, grazie all'aiuto di Lutz Klinghammer, si tratta di un precedente che fino a un certo punto può essere assimilato dunque a quello che è avvenuto in Grecia. Un'ultimissima questione telegrafica, professor Klinghammer, alla luce di questo paragone che viene fatto, è secondo lei giustificabile la nuova polemica che si è in qualche modo scatenata sul ruolo della Germania all'interno dell'Unione Europea in questo momento? Ci sono degli storici dell'economia che dicono che la Germania è stato il più grande peccatore sul debito pubblico del XX secolo e che bisognerebbe essere molto cauto ad esprimersi adesso come diciamo in una posizione da maestro, certo, che insegna agli alunni la strada da compiere. E questa osservazione è stata fatta da un storico economico tedesco che insegna in Inghilterra, Albert Rich. Sicuramente bisogna vedere al passato per imparare anche per l'oggi e vedere il precedente, il taglio notevole che la Germania ha ricevuto, che ha permesso tra l'altro ad Adenauer anche di arrivare ad una politica degli indennizzi individuali bilaterali per le vittime del nazionalsocialismo, in primis un indennizzo concordato con lo Stato di Israele in contemporanea con il Trattato di Londra. Bene, grazie professor Klinghammer per questi chiarimenti, e allora la attendiamo a una prossima puntata del nuovo ciclo della storia e la memoria che abbiamo deciso di dedicare alla storia dell'economia. Buonasera.